Radio 24. La passione si sente. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ci siamo, parte il cashback di Natale. Dall'8 al 31 dicembre chi paga i suoi acquisti con carta di credito, bancomat o una delle app per i pagamenti digitali riceverà un rimborso del 10% di quanto speso. Solo nei negozi fisici sono esclusi gli acquisti online. Rimborso massimo 150 euro. È l'antipasto natalizio di un'operazione più duratura, studiata per incrementare i pagamenti digitali e contrastare quindi l'evasione fiscale, che partirà da gennaio. Non abbiamo riscontrato quei rallentamenti che molti stanno segnalando nelle ultime ore, quando in tanti hanno preso d'assalto la app IO. PagoPA, che gestisce l'infrastruttura, si è scusata per i disservizi e garantisce di essere al lavoro per risolvere i problemi. Ora vi confesserò una mia debolezza e una mia enorme, profondissima lacuna. Io ieri pomeriggio, contattato da alcuni colleghi, mi illudevo, fate partire il video, grazie, mi illudevo che scaricando questa fantomatica app IO PagoPA avrei ottenuto un rimborso del 10% per ogni mia spesa. Mi sembrava improvvisamente di essermi trasformato nel ricco Epulone. Dico, pensa te, io 3 giorni fa ho comprato una lavatrice, ahimè, l'ho comprata via online, però quasi 500 euro, avrei avuto 50 euro indietro, mai più, subito, scarichiamo l'app IO. Mi sono messo a scaricarla e non vi entro nei particolari, cosa si tratti, cos'è questo famoso cashback di Natale, perché chi ha ascoltato la trasmissione dei colleghi Due dei Denari che mi ha preceduto sa perfettamente che si tratta di un sistema per ottenere un rimborso su alcuni pagamenti che vengono fatti attraverso la modalità elettronica. Io, come un novellino e come un figlio di nessuno che non ha informazione, mi sono messo a cercare di scaricare questa app, anche abbastanza facile scaricarla, pensando, immaginando che avrei per ogni mia spesa ottenuto indietro il 10%. Ho avuto, intanto leggendo le istruzioni, qualche piccola delusione. Sono soltanto le spese fatte direttamente in posti fisici, meglio così, dico, meno incrementiamo il lavoro per chi ha negozi, per gli artigiani, per i professionisti e via dicendo. Ho capito che in realtà devo spendere assolutamente 1500 euro da qui a fine anno per avere in cambio 150 euro. Oddio, 1500 euro da spendere nel negozio, mica è detto che me la senta proprio, perché devo spendere 1500 euro? Può essere che magari non abbia bisogno di niente, anche troppo rispetto a quello che spendo settimanalmente. Comunque mi sono accorto di tutta una serie di altre divertenti informazioni che a me mancavano. Non posso sapere tutto, sono molto ignorante in questo. Sono accorto ad esempio che il gioco potrà continuare anche l'anno prossimo, che da gennaio a giugno io potrei riavere lo stesso servizio, però devo fare almeno 50 transazioni per ottenere sempre i soliti 150 euro. Detto questo, potrei essere anche fra i fortunati che, avendo fatto più di 50 transazioni, partecipa a una sorta di lotteria, capito? Che mi permetterà di essere estratto fra le persone che otterranno un super bonus di 1500 euro. Insomma, tutto questo però non l'ho fatto da solo. L'ho fatto collegato con un amico che è molto più esperto di me in queste cose, che ha tentato di fare la stessa operazione. Ah, tutta questa mattina io adesso chiamo l'amico mio che mi sta ascoltando e vediamo se possiamo noi uscire finalmente allo scoperto e con la nostra app IO iniziare a fare queste fantomatiche spese per avere il ricco bottino, forse a fine dicembre, di 150 euro. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Gianluca. Tu stai ancora ridendo, allora ricordo che Andrea Rossetti è un professore universitario molto serio, insegna informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Ieri è stato, diciamo, mio partner in questa divertente serata. Intanto prego gli ascoltatori che ci sentono di chiamare all'800 24 0024, visto che almeno ieri sera erano quasi 7 milioni di persone quelle che avevano scaricato questa app. Cosa ne avete fatto? Siete riusciti a completare la transazione? Siete riusciti a avere tutti gli elementi per poter oggi spavaldi come zio Paperone, che ha il segno di dollari al posto delle pupille, andare per negozi già pregustando la gioia di poter avere questi 150 euro a fine anno. Allora, Andrea Rossetti, io ancora non sono riuscito a completare l'operazione, devo dire. Sì, l'ho scaricata l'app attraverso lo Speed, ci sono tutti i miei dati, ma non riesco a caricare le informazioni relative alla mia carta di credito e quindi naturalmente non la posso usare. Te a che punto sei? Allora, no, a me invece stamattina ovviamente non mi compare il cashback, però in compenso nel portafoglio mi compaiono tutte le tasse che ho pagato nel 2019, ovviamente non nel 2020, quelle che ho già pagato, ma nel 2019. Quindi questo elenco posso dimostrare di aver pagato le tasse l'anno scorso, io, ecco, fondamentalmente con l'app io in questo momento. Sì, ma non puoi andare a fare acquisti avendo il ricco premio in cambio. Ovviamente no, o meglio no, io posso, perché in realtà mi sono registrato tramite un'altra app, tramite l'app. Adesso non farlo troppo complicato, creiamoci, tu hai usato un sistema di aggiramento, grazie, sì. Lo so, è troppo facile, ma mica tutti sono professori di informatica giuridica, scusa. Con questo non si, è facile anche nell'altro modo, però con questo non si può fare. No, bisogna dire che all'inizio io credevo di esserci riuscito, perché io sono riuscito a inserire sia l'IBAN della mia banca, sia il numero della mia carta di credito e ho completato le operazioni come previsto, perché effettivamente l'app è molto facile da usare, questo gli va riconosciuto, no? La facilità d'uso c'è in questo caso, a differenza di altre app tipo quella dell'INPS che sono davvero complicate anche a decifrare, in questo caso invece l'usabilità era davvero molto alta. Appunto, io ho chiuso l'applicazione convinto di essere ormai pronto a fare le spese, invece poi quando ci siamo sentiti alle 7 di sera più o meno, quando erano, mi sono reso conto che in realtà i miei dati di pagamento non erano stati registrati e quindi di fatto io non posso utilizzarlo, o meglio posso utilizzare la carta di credito come al solito, ma non otterrò nessun denaro in cambio insomma indietro. A me invece, ecco, nel mio portafoglio digitale di questa app c'è scritto che posso usare il bonus vacanza, che non ho mai richiesto, che non mi interessa nulla. Io volevo soltanto prendere il ricco premio per spendere i miei 1500 euro, ma non li spenderò mai da qui a fine mese, e avere in cambio 150 euro. Ecco, cerchiamo di capirne un pochino di più. Beh, già Deborah Rosciani e Mauro Meazza hanno spiegato nei particolari di cosa si tratti, a cosa serve, qual è lo scopo e via dicendo. Mi sembra che secondo me poi alla fine si appianerà questo problema, probabilmente da qui a qualche giorno potremmo tutti usarla. A naso, secondo te, rispetto a tutta una serie di altre app di respiro internazionale che noi tutti usiamo, cosa ci trovi come dato nazionale particolare in questa? Io ci trovo un pochino, mi perdoni, mi scusi, sono l'ultimo delle persone che può parlare e merito tutte le pene possibili. C'è un po' di gusto del micragnoso, scusate se devo dire così, ma vi pare che una persona deve perdere tutto questo tempo per 6 mesi, per ottenere alla fine di 6 mesi 150 euro? Voi dite sputi sul piatto in cui tutti, molti mangerebbero volentieri, sei disprezzi quella che è la povertà e via dicendo. Mi sembra un po' sproporzionato il sistema e l'impegno e la fatica che si fa per il risultato che si ottiene. Già c'è il solito furbone che mi sta scrivendo: io guarda che mi faccio gli acquisti online e mi risparmio altro che il 10% rispetto a quello che spendo. Sì, allora bisogna dire che la difficoltà è solo iniziale, perché poi tutto il resto dovrebbe essere automatico, no? Nel senso che io quasi magicamente alla fine di ogni mese, o qui non ho capito bene quando, però dovrei vedermi riaccreditati sul mio conto corrente, quello della banca, parte dei soldi che ho speso. Effettivamente il sistema è abbastanza complicato da mettere insieme, che io sappia non ci sono iniziative internazionali di questo genere, però ad esempio in Portogallo ormai da qualche anno, con un sistema simile a questo, vengono registrati tutti gli scontrini emessi, di modo che all'Agenzia delle Entrate, portoghese ovviamente, risultino automaticamente tutti gli scontrini, tutte le spese che sono scaricabili. Dietro c'è una struttura di questo genere, no? Cioè, ci si registra all'inizio, si danno una serie di informazioni in maniera che io possano essere attribuite a me le spese che io faccio, dopodiché il sistema funziona automaticamente. Quindi sì, teniamo conto che non è molto il 10% effettivamente indietro, però appunto, in teoria, se tutto avesse funzionato, alla fine, non è, per registrare... Scusami, non è il 10% in assoluto, il 10% fino a un tetto di 150 euro. Non solo fino a 150 euro, ma in realtà il massimo è 15 euro per spesa, quindi se io spendo 150 euro ora mi rimborsano 15 euro, ma se ne spendo 200 mi rimborsano comunque 15 euro. Quindi, ma se ne spendi 1000 ti rimborsano 15 euro. Esatto, se ne spendo 1000 questo con la detto bene, sono le persone fanno spese pazze pensando di avere il 10% indietro, ma non è così, massimo danno 15 euro. Questo no. A me sembra che questo sia stato pensato unicamente appunto proprio per le spese quotidiane, no? Le piccole spese che io posso fare. Ad esempio, io insomma, adesso ovviamente siamo tutti chiusi in casa, però quando pranzo, quando sono in università e pranzo fuori, pago sempre con la carta di credito e quindi spendo 10-15 euro, una cifra del genere. Quindi effettivamente in 6 mesi accumulerei il numero di transazioni necessarie probabilmente e resterei sempre all'interno della cifra in maniera da massimizzare e avresti indietro 150 euro indietro. Sì, vabbè, meglio di niente euro. Questo è chiaro. Senti, tu sei sott'occhio la pagina, ti farò qualche informazione, la pagina ufficiale della Pio. Certo. Ieri mentre noi giocavamo erano quasi 7 milioni le persone che l'avevano scaricata, 6 milioni erano 753. Meno, esatto, adesso sono 7 milioni 170 938 in questo momento, quindi un 200.000 più di ieri, anzi 220.000 in questo momento. Guarda, fatto le quindi però si è rallentato, perché dopo due ore che avevamo parlato già erano cresciuti 200.000, stanotte sono un po' fermati. Sì. Un po' si è fermato. Allora, però abbiamo conto al telefono che... già due aspiranti ricchi e puloni che hanno fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi. Aulo, buongiorno. Buongiorno. Come va? Io volevo dire questo, che ho iniziato, o meglio, ho scaricato la app venerdì pomeriggio e già aveva dei problemi. Poi avevo letto che c'era un aggiornamento, l'ho cancellata, l'ho riscaricata sabato. È da sabato che provo a, diciamo, caricare il sistema di pagamento, provando anche con due diverse carte di credito, diciamo così, perché pensavo fosse un problema magari del circuito, e non mi è possibile ad oggi ancora caricare il metodo di pagamento. Ma te l'IBAN sei riuscito a caricarlo? Perché io nemmeno quello. L'IBAN sei riuscito a caricarlo? No, non sono riuscito a caricare nemmeno l'IBAN. E quindi praticamente al momento non serve a nulla, non serve. Beh, però scusa, abbiamo passato un po' di tempo in maniera ingegnosa e divertente, possiamo anche vederlo come un gioco di società, alla fine ci fa sentire affratellati nella ricerca del ricco bottino. Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho scaricato l'app ieri, quindi nella versione aggiornata, penso. Dopo un'oretta sono riuscita a caricare l'IBAN. Non sono riuscita a caricare nessuna carta di credito ieri pomeriggio, ho riprovato quasi interrottamente da ieri sera alle 11 fino all'1 di stanotte, poi ho smesso e ho riprovato dalle 2 alle 3 di stanotte, alla fine alle 3 sono riuscita a caricare due carte di credito, una carta ricaricabile e un bancomat, il bancomat era l'unica cosa che sono riuscita ad avere direttamente dal sistema. Però alle 3 di notte, dopo quindi con questa tua ammirevole ed eroica fatica, esatto. Adesso potrei andare per negozi e spendere serenamente. Non lo so, perché teoricamente sì, però stamattina riattivando l'app non vedevo nulla, nel senso che diceva... Ma ti è scomparso tutto un'altra volta? Sì, adesso non so se è un problema di sistema, però ho provato una decina di volte a cliccare su riprova, ma... non vedo niente. Adesso immagino che questa Andrea mattina Rossetti. Allora, Antonella merita dovrebbe avere una sorta di cavalierato, legion d'onore, gran croce al merito, granduff, perché è stata fino alle 3 di notte, ha caricato tutto, aveva già fatto la bocca, già si era presa la borsetta, le scarpe belle, il cappellino, il parapioggia, dice adesso esco e spendo finalmente 1500 euro in 10 transizioni e stamattina è riscomparso tutto. Allora, innanzitutto lei ha fatto la cosa giusta, perché tenete conto che deve essere aggiornata ieri l'app, nel senso che l'aggiornamento che contiene il codice per fare il cashback è quella di ieri, perché l'ultimo aggiornamento è del 7 dicembre, quindi se l'avete installata il 6 dicembre ovviamente lì non funziona, questo mi sembra che l'avesse fatto l'ascoltatore precedente, quindi deve essere aggiornata ieri l'app. Sì, però guarda, Andrea, il blocco di questi 7 milioni ha cominciato tutti ieri, perché ho visto un'agenzia della mattina c'era un milione e mezzo, quindi la corsa al bottino c'è stata ieri, c'è stata. Sì, sì, indubbiamente. No, ma il primo ascoltatore mi sembrava che lui aveva detto che l'aveva scaricata appunto domenica, e lì chiaramente non funziona perché non c'è il pezzo, non ci sono ancora i pezzi per farla funzionare, insomma. Invece che se scaricata, aggiornata ieri, dovrebbe funzionare, ma ripeto, è un po' quello che è successo a me, nel senso che io effettivamente sono riuscito a fare il percorso, ma alla fine l'app mi ha detto che non sono stati registrati la carta che avevo inserito. Peraltro in questo momento un amico a cui ho suggerito il mio giro mi dice che non funziona più neanche nell'altro modo, insomma, quindi rispetto a ieri c'è un modo in meno per potersi accreditare. È un po' come il gioco dell'oca, tu sembra che sei arrivato, poi vai sull'oca e devi tornare indietro, esatto, praticamente la stessa cosa. Esatto. Giuseppe, buongiorno. Sì. Giuseppe. Buongiorno. Sì. La mia allora dai, vediamo un po' come la sei cavata a te. È un'esperienza analoga a quella di Antonella, perché ho attivato tutto ieri. No, dimmi l'orario, perché è importante capire la modalità in cui siete riusciti allora, a scaricare. Ieri mattina 8:30 è funzionata l'attivazione della carta di credito, non quella del Bancomat. Quante ne vuoi? Sei già fortunato, scusa, non c'è riuscito nessuno. Okay. Insomma che stamattina ho fatto 2 acquisti. Sì. Ma mi dice che il metodo di pagamento non è recuperabile. Quindi è come se tu non l'avessi fatti. Non lo so se i dati in realtà, visto che la carta è registrata, verranno recuperati poi dalla rete successivamente. Questa è la mia speranza. Diciamo, tu vivrai da qui al 31 dicembre nella speranza che questi acquisti non siano stati vani, se no avrei perso un ricco bottino, avrei perso circa, che ne so, 30 euro di rimborso, no, più o meno. 30 euro di rimborso. Buttali via di questi tempi, non è male. Allora, Andrea Rossetti, vediamo se riusciamo a fare un punto. Come vedi, sono dei comportamenti totalmente disomogenei, che questo è divertente, non è che è un bug che è sempre lo stesso, si presenta sempre lo stesso problema, si presentano una serie di problemi. Quello su cui vorrei che tu riflettessi, e dopo la pausa per la borsa approfondiremo, ma come mai nel nostro fortunato paese, dove c'è il sole, o mare, i santi, i navigatori, tutte le volte che si va a toccare il mondo ormai frequentatissimo delle app, dei sistemi digitali per avere in cambio delle operazioni, dei vantaggi, le interconnessioni, c'è sempre un problema, che Pornhub deve fornire i suoi server per l'app della piattaforma IMPS, che l'app Immuni tutto sommato alla fine è stato un grande bluff, che il bonus mobilità ha avuto problemi d'accesso per il click day del 3 novembre. Questa app io entrerà nella storia delle nostre divertenti tensioni con i sistemi informatici. Ci fermiamo un istante e riprendiamo tra poco. Melog. Cosa fare nel concreto per aderire al programma? Anzitutto bisogna iscriversi a IO, la app della pubblica amministrazione, usando la propria identità digitale, il cosiddetto SPID. Oppure ad una app di pagamenti, ad esempio hanno aderito al programma Nexi, Yap, Satispay e altre. Si inseriscono i propri dati, l'IBAN e i mezzi di pagamento scelti. È poi necessario un numero minimo di pagamenti digitali, almeno 10 da qui a San Silvestro. I soldi arriveranno sul conto corrente a febbraio. Sì, i soldi arriveranno a febbraio, però stiamo giocando con i nostri ascoltatori una mattinata tutto sommato di festa e cerchiamo di scoprire attraverso quali meccanismi, quali ingarbugliate combinazioni fra orario, disponibilità, tempo da dedicare a questa operazione, sono riusciti ad entrare nel Sancta Sanctorum dell'app Io Pago Pa. E sono riusciti questa mattina ad ambire alla ricca ricompensa di poter iniziare la dura scalata delle 10 transazioni per ottenere, con la cifra di 1.500 euro spesi, il rimborso di 150 euro. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono riuscita a caricare l'app, l'ho caricata mercoledì. Aspetta, quando, come, a che ora? Voglio sapere tutti i particolari. Mercoledì scorso l'app. Non sono riuscita a caricare subito le carte, però il giorno dopo, la mattina presto, sono riuscita a caricare le carte. Tra l'altro ho utilizzato l'app poi per fare dei pagamenti in PagoPa. Sì, e nel portafogli elettronico appaiono questi pagamenti? Sì, sì. Allora, sì, mi appaiono. Oh, allora funziona. La prima prova vivente che l'app comunque funziona. No, Giovanna, sì, è così. Sono pagamenti in PagoPa comunque per la pubblica amministrazione. Poi stamattina, adesso ascoltandovi, ho provato a vedere se riuscivo a caricare l'IBAN e magari un'info utile, sono riuscita a caricare l'IBAN perché bisogna andare nella sezione servizi. Lì c'è un punto sotto dove c'è il Ministro delle Finanze, dove dice attiva PagoPa, ho inserito l'IBAN, poi ho provato anche a caricare un bancomat, non mi è andato, però poi rientrando mi dice che cashback è attivo, quindi non mi ha più richiesto l'IBAN. Sì, anche a me dice che è attivo, però non ho caricato niente, me lo dice lo stesso anche se non ho caricato nulla. Ah, perché io non lo vedo più dalla sezione portafoglio, però entrando nella sezione servizi ti chiede di caricare l'IBAN. E quindi ricominciare tutto da capo. Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca. Giovanna, alla fine mi sembra che gira sta al punto nostro, o è già un passo avanti? No, allora in realtà è un passo indietro se non ha completamente aggiornato l'app, far nel senso che il metodo di pagamento, allora l'app è stata rilasciata in versione beta ad aprile di quest'anno e quindi già da allora si potevano caricare dei metodi di pagamento, tendenzialmente solo carte di credito. Quindi le spese che lei ha fatto adesso, i pagamenti verso la pubblica amministrazione che ha fatto, ovviamente sono stati effettuati, ma altrettanto ovviamente non saranno cashback, perché il cashback comincia per quelli che funzionano da oggi fondamentalmente. Quindi Laura ancora sta a zero, peggio di noi. Giovanna sta a zero, no, peggio lei di noi. Però, lei a differenza nostra ha dei metodi di pagamento che sono già accreditati. Ecco perché le compare nella sezione servizi la domanda semplicemente di attivare il cashback, no? Perché l'app si rende conto che ha già dei metodi di pagamento inseriti. Quindi lei è da una parte avanti perché ha metodi di pagamento inseriti, però questi metodi di pagamento non sono stati connessi all'IBAN, tant'è che lei l'IBAN non è riuscita a inserirlo. Se Giovanna adesso esce, va a comprare un chilo di mandarini, può scaricarseli oppure no? Non lo so francamente. Allora, Giovanna, io credo, come ci fai un favore, vai a provare a fare un acquisto. Giovanna, è svenuta, ecco la notizia. Ci sei Giovanna ancora? No, Giovanna è caduta, è caduta. Questa notizia l'ha fatta tracollare, stremare, pensava che stava sulla strada nel tunnel di luce, già era pronta a vedere in fondo, invece niente, Giovanna sta peggio di noi perché l'illusione le fa ancora più male. Laura buongiorno. Buongiorno Gianluca, auguri. A che punto sei? In che orario sei riuscita? Cosa hai fatto? Allora, io ho seguito un percorso molto simile a quello di Giovanna, solo che mi sono... A che ora hai lavorato? A che ora hai lavorato? No, orari umani, non di notte. Cioè, no, non ho sviluppato un disturbo ossessivo compulsivo in questo caso. Anche se la pena per prendersi il bottino valeva, però, scusami. Vabbè, allora, a che punto che sei? Io e mio marito abbiamo già fatto degli acquisti senza usare questa modalità e quindi insomma in qualche modo già siamo partiti male. Però allora oggi mentre vi ascoltavo ho provato ad aggiungere l'IBAN che non ero riuscita ad aggiungere nei giorni scorsi e neanche il cashback ero riuscita, giustamente perché l'applicazione andava aggiornata. L'applicazione mi si è aggiornata da sola. E quindi oggi sono riuscita appunto a mettere queste due cose, ad attivare il cashback. Va detto che le carte le hai caricate, sì. Sì, l'Amex l'ho caricata, non sono riuscita a caricare la Visa. Ma basta, ce n'hai una, usa quella. Sì, e quindi, sicuramente fa più punti. E quindi tu potrai andare camminando a metro da terra per le vie dello shopping della tua città e riempirti i soldi di rimborsi. Sono molto gioiosa di questo, esatto. Però volevo dire una cosa, che il cashback comunque rimane il pulsante attivo con attiva cashback, cioè anche se è attivo sembra che non sia attivo, per cui non bisogna Andrea Rossetti, secondo te che problema è quando sembra che sia attivo ma in realtà non è attivo, invece è attivo? Forse è una domanda da fare a Nicoletta Carbone, non lo so adesso, che vuol dire? A me è morto anche Rossetti. No, ci sono io. Pronto? Pronto? Sì, mi senti? No, volevo capire questo mistero di Laura, che sembra che... No, a me è partito. In questo momento nel mio portafoglio è comparso cashback, devo dire, e ovviamente non ho ancora fatto transazioni. Controllo subito anch'io. Sì, e dice che però possono passare fino a 72 ore prima che si possano vedere le transazioni effettuate. Quindi in realtà questo, questa è un'informazione, questa è un'informazione, è la prima volta che ho notizia di questo messaggio. Sì, devi aspettare le 72 ore. Sì, si può aspettare fino a 72 ore. Chissà perché 72, attraverso quale calcolo cabalistico hanno detto 72, non 24, 48, 36. Non ne ho la minima idea. E poi c'è un task che mi permette anche di cancellarmi dal cashback a questo punto. Eh no, se mai hai raggiunto questo risultato, vuoi cancellarti adesso? No, per carità. Sarebbe no, assolutamente. Sì, c'è anche proprio il mio IBAN corretto, a quello che mi sembra, almeno le ultime cifre che sono le uniche che ricordo mi sembrano corrette. Quindi io oggi proverò a comprare qualcosa con la carta di credito e così potrò vedere se effettivamente verranno accumulati sulla... Allora, io ho il sospetto, qualcuno avendoci ascoltato... Ha chiamato la Spectre, ha detto attivate Ivan, professor Rossetti, così almeno guarda, facciamo bella figura. Il sospetto è venuto anche a me, devo dire. Fermo un attimo. Ivan, buongiorno. Ivan. Ciao, buongiorno. So che schiatterai di rabbia perché i privilegiati, vedi Rossetti che ho raccomandato, l'hanno sentito per radio, gli hanno attivato tutto. Tu invece cosa hai fatto? No, io ci ho provato ieri tutto il giorno e non c'è stato verso. Stanotte, essendo io un vecchio signore, mi sono alzato alle 4 per espletare bisogni fisiologici. Visto che sono sveglio, proviamo. Ho provato e sono entrato, ho caricato tutto, per cui adesso sono pronto. Quindi approfittando della necessità di scaricare, hai caricato? Ho caricato, esatto. Fantastico. Stamattina mi sto girando per tentare di fare degli acquisti. Ma stamattina funziona tutto? C'è il cashback, c'è la presente, caricato tutto, i dati, tutto, le carte? Tutto, c'è tutto. Devo solo provare ad acquistare adesso qualcosa. Quale sarà il primo acquisto? Annuncio. Ho tentato stamattina di andare in bar e c'è stato un mio amico che non ha assolutamente voluto che io pagassi, per cui non sono riuscito. Ti hanno offerto il caffè. Niente, proverò adesso con la benzina, vediamo. Buona fortuna. Automatica. Vedi, però, sta aumentando l'ottimismo. Siamo partiti noi, giustamente, cattivi e critici, man mano che ci addentriamo nella giornata fortunata dell'8 dicembre, cominciano a vedersi i primi risultati. Il nostro amico Ivan si alzò per andare a vedere se era rimasta aperta la finestra del salotto, come la nota pubblicità, e in realtà è riuscito ad entrare. E ce ne sono tantissimi altri che sentiremo tra un istante. Approfitterò della pausa traffico per vedere se per me è cambiato qualcosa, ma dubito. Melog. Su IO puoi attivare il cashback andando alla sezione portafoglio e scegliendo cashback dai servizi in evidenza. A questo punto IO ti chiede di inserire il codice IBAN a cui vuoi ricevere gli eventuali rimborsi. Ricorda che il conto corrente deve essere intestato a te. Se avevi già salvato nel tuo portafoglio dei metodi di pagamento compatibili, IO ti proporrà di salvare il cashback su ciascuno di essi. Ora hai il cashback attivo nel tuo portafoglio. Quando vuoi, puoi aggiungere altri metodi di pagamento e controllare il rimborso che hai accumulato in ciascun periodo. Devo dire che sto rosicando molto. Datemi come scusante il fatto che controllare le telefonate, controllare le telecamere, controllare la messa in onda, controllare i messaggi degli ascoltatori, controllare la scaletta, parlare con Intonti, Chiappini e quanti altri, e allo stesso tempo cercare di guardare il proprio portafoglio su IO non è facile, ma a me mi dice ancora che in realtà non è possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere, riprovo e non succede niente. E mi rimane sempre in evidenza quel piffero di bonus vacanze di cui non so che farmene. E invece vedo che il trend degli ascoltatori in realtà è un trend di fortunatissimi. Renato, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho fatto tutta la procedura scaricando l'app alcuni giorni fa, l'ho aggiornata con il cashback. Non avevo intenzione di uscire oggi, quindi non sono impazzito a caricarla, però mentre la stavo ascoltando ho detto fammi provare, e ho caricato l'IBAN senza nessun problema, ho caricato la carta di credito in due tentativi. E una cosa che accade, non so se è stato già durante la trasmissione, c'è un addebito di 2 centesimi sulla carta di credito che poi verrà rimosso per verificare. Ah, beh, quello, quello succede sempre, quello è normale. Quindi se è già arrivato ai 2 centesimi vuol dire che lei ha fatto, ha svoltato. Sì, sì, sì, tutto fatto. Mentre la stavo ascoltando in trasmissione... Ho detto, complimenti, il primo della classe, arrivato il bravo che deve far fare agli altri le figure da ignoranti. Grazie, no, Renato, grazie molte, grazie. Siamo fortunati. Grazie, lei è stato bravo. Paola, sentiamo Paola. Buongiorno, io ho scaricato l'app qualche giorno fa, stanotte mi sono svegliata un po' presto, ho messo dentro la carta. A che ora? A che ora, Paola? Alle 4:30. Ah, beh, 4:30, l'ora giusta per scaricare io e aggiornare io, esatto, naturalmente. Ma chissà perché poi la chiamo io come l'asino di Winnie the Pooh, comunque stamattina, vabbè. Stamattina ho già usato la carta. Cosa ha acquistato di bello? Ho acquistato dei ciclamini e dei vasetti perché sono appassionata di giardinaggio, sono andata al vivaio. Spendendo quanto? No, per capire. Ho speso 40 euro e ne otterrà 30 in cambio, 15-15. Sì. No, ne sbaglio, dico una stupidaggine. No, non otterrà niente tra 15. Andrea Rossetti, scusa, i ciclamini, fammi capire, perché sto in confusione, perché sto rosicando, non ti immagini quando. Senti che 2 ascoltatori ce l'hanno fatta e sto ancora qui. Quanto ha guadagnato Paola con i suoi ciclamini e i suoi basetti? Ha recuperato il 10%, 4 euro ovviamente. 4 cioè, euro Paola? Sì, 4 euro. Oggi diciamo si brinda e si festeggia a casa tua. Sì, sicuramente. Non pago. Bene, Paolo, sono felice. Avrei una con 4 euro che ci fai aperitivo. Aspetta, ce ne servono almeno altrettanti, almeno, se non 2 volte. Perché con 4 euro non so se ti danno un aperitivo. Forse un sono bicchiere d'acqua con spremuto. Negozio a comprare una stella luminosa, se la trovo, perché voglio mettere fuori casa e penso di averla quasi trovata, ne ho trovate già 2, per cui penso che continuerò a comprare qualcos'altro oggi. Io penso, Paola, che mi chiameranno molti colleghi dei giornali per dire ci dai il telefono di Paola perché così possiamo scrivere dei pezzi, fare dei servizi sulla prima utente numero 0 che sta usando felicemente l'app Io, non Io come l'asinello di Winnie the Pooh, e sta facendo delle spese gratificanti, ciclamini, stelle di Natale. Paola aleggia felice, la vedete come una fatina buona, come la piccola fiammiferaia, però soltanto nel sogno. Cammina nel suo sogno, acquista cose belle e scarica e guadagna. Mario. Mario? Sì. Allora, io... Non mi dica che anche lei è andato tutto bene, sennò veramente spacco no, il telefono. Benissimo. No, Nicoletti, mi dispiace dirlo, ma... No, sono contento, sono felice benissimo. Per voi. Soltanto che io, ieri sera era impossibile, stamattina alle 6:15 sono riuscito. La solita prassi, 2 centesimi ti addebitano e poi che dicono che te le restituiscono. Sì, quelli sicuramente, ma quando si arriva ai 2 centesimi è fatta, si è già nel paradiso dei risparmiatori. Paradiso, esatto. Certo. E quindi lei adesso potrà spendere tranquillamente. Stamattina, all'apertura di un negozio, ho comprato un paio di mutande. Un paio di mutande, sì. Spendendo quanto? Spendendo 15 euro. 15 euro, quindi il 10%. 14,95. Perfetto, vedi. Pensi che bello indossare quelle mutande sapendo che avrà il rimborso da PagoPa. Tu diventerà un toro dentro quelle mutande per l'incentivo che gli ha dato PagoPa. Bravo. Alberto. Sì, buongiorno Alberto. Nicoletti. Devo dirle anche io che è andato tutto bene. Stiamo dando un'informazione, la nostra è una radio di servizio, rispetto a 2 ore fa la notizia è che gli italiani stanno usando felicemente Io Pago Pa, sono felice di dare per primo questa informazione al mondo, funziona l'app, e finora abbiamo le testimonianze di un mazzo di ciclamini, una stella di Natale, un paio di mutande, lei Alberto invece cosa ha acquistato? No, io per il momento ho preso solo il caffè proprio per provare, per vedere quanto tempo ci mette a comparire la transazione. Quanto tempo ci ha messo? Ancora non è comparsa, diciamo che l'ho preso 10 minuti fa, perché mentre sentivo la trasmissione di Radio 24 ho avviato l'app, ho registrato la carta di credito e sono andato a prendere il caffè. Mi fa felice. Allora, Andrea Rossetti, vediamo di dare una conclusione. Cosa è accaduto secondo te? Stimolati dalla trasmissione sono andati a provarla? Il bug è stato risolto? PagoPa sta funzionando e quindi diamo la notizia che da oggi funziona? Che è accaduto? Io non credo che sia stato un bug, ma semplicemente hanno ancora una volta sottovalutato la mole di persone che avrebbero avuto accesso nelle prime ore, e questo ha generato il problema. Teniamo conto che questi sistemi sono sistemi che sono di per sé collaudati e le complicazioni dipendono dall'enorme numero di persone che cercano di accedere e di utilizzarle. Semplicemente, secondo me, appunto, è stato sottostimato ancora una volta, dopo il caso del bonus per i monopattini, dopo il caso di altri casi in cui c'era il click per ottenere dei risultati con qualche genere di sconto, si è sottovalutato questa cosa, che è abbastanza incredibile, perché la progettazione del sistema è avvenuta a partire dal 2018, quindi quando questi problemi erano già non solo immaginabili, ma c'erano già gli strumenti per risolverli, insomma. Però ti diranno, è ancora la versione beta test, dopo 2 anni, quando faremo finalmente la versione definitiva non ci sarà questo problema. Allora, italiani, spendete felici, PagoPa è accanto a voi. Grazie Andrea Rossetti, grazie a quelli che mi hanno permesso di dare questa fantastica notizia. A domani.